hanno ragione quando dicono appunto che l'alternanza scuola-lavoro è un dispositivo che non soltanto va modificato ma abolito, soprattutto appunto nella versione della buona scuola, ovvero di un sistema obbligatorio di lavoro tra le 200 e le 400 ore nell'ultimo triennio delle scuole superiori, a seconda che si tratti appunto di liceo, di tecnico o istituti tecnico professionali, in quanto appunto da un lato si sottrae, in termini generali si sottrae formazione frontale agli studenti e dall'altro si obbligano appunto a un lavoro. Questo sempre nella retorica di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro senza mai però preoccuparsi appunto di qual è il mondo del lavoro che abbiamo davanti, e di conseguenza in realtà vediamo quello che succede, ovvero progetti chi più ne ha più ne metta e soprattutto sfruttamento di manodopera gratis, e quindi il costo del lavoro diciamo abbattuto totalmente per le aziende che poi appunto non fanno una reale formazione ma mettono a lavorare gli studenti anche in condizioni di scarsa o nulla sicurezza e senza nessuna formazione, spesso per quelle che sono invece le attività che sono chiamati a svolgere. In particolare ci sono stati diversi casi che sono balzati agli onori delle cronache negli anni scorsi, ad esempio la questione di McDonald's con 10.000 posti di, come dire, alternanza scuola-lavoro messi a disposizione, e a qualcuno è venuto il sospetto insomma che forse servisse personale nei fast food, ma anche supermercati che mettevano i ragazzi ad allestire. Ma la domanda che ti faccio è, come dire, non sono casi di aziende che abusano di uno strumento, quindi, come dire, non sono solo casi isolati, è un problema di fondo? Ma è un problema di cos'è l'alternanza scuola-lavoro oggi, nel senso le imprese, i capitalisti fanno i capitalisti, se riescono, soprattutto in un sistema imprenditoriale, un tessuto produttivo come quello italiano, sempre più dequalificato, a abbattere totalmente il costo del lavoro, loro lo fanno e ne approfittano, quindi diciamo è un abuso istituzionalizzato e soprattutto che coinvolge a regime circa 1.500.000 studenti. Per quanto riguarda McDonald's, lì andiamo proprio a capire qual è la finalità e quindi la sostituzione vera e propria di lavoro, quindi i contratti di lavoro o meno, secondo me poi arriviamo anche alla situazione di quei voucher con lavoro gratuito, perché il grande diciamo contratto di McDonald's sull'alternanza scuola-lavoro è stato siglato direttamente dal Ministero della Ricerca, quindi anche lì tutta la retorica di avviciniamo gli studenti al mondo del lavoro di domani significa che il governo ha in mente un mondo del lavoro fatto di commessi, camerieri e di babysitter, lavori sicuramente dignitosi, però non è su questo che poi possiamo avallare questa retorica della crescita, delle competenze e dell'occupabilità dei giovani. Infatti il tema diciamo della scuola classista in realtà è un tema centrale nella questione alternanza scuola-lavoro. Si sembra un po' che si voglia avviare una intera generazione a un certo tipo di mansioni, come dire, senza incoraggiare magari anche questi ragazzi a proseguire invece gli studi. Sì, non soltanto questo. Secondo me la questione classista, quindi da un lato, è proprio quella per cui chi avrebbe oggi più bisogno di formazione e di riscatto, perché viene solitamente, nella maggior parte dei casi, da famiglie meno abbienti, contesti socio-economici più poveri, sono proprio i ragazzi iscritti agli istituti tecnico-professionali che invece fanno il doppio delle ore rispetto a chi invece va al liceo, che sappiamo essere comunque figlio, no, di quelle classi medio-basse o medie della società italiana. Dall'altro lato, soprattutto, la questione di classe emerge nel momento in cui, a seconda del liceo, a seconda delle relazioni che uno ha sia all'interno della scuola, la scuola rispetto al tessuto sociale di riferimento, la famiglia rispetto alle reti che può avere, questo produrrà dei progetti alternanza scuola-lavoro molto diversi tra loro. Cioè, pensiamo a uno studente del Visconti Roma, grande liceo classico dell'alta borghesia romana, sicuramente riuscirà a fare 150 ore con le 200 ore che gli spettano in un bellissimo studio di architettura, uno studio legale, eccetera. Chi invece nella stessa città viene alla periferia, dove appunto non ha la scuola, non ha contatti, dove il tessuto di riferimento anche rispetto appunto al mondo del lavoro è più scarso, si dovrà accontentare di lavori più scarsamente qualificati, e quindi in prospettiva la sua esperienza sarà quella cosa lì rispetto al mercato del lavoro. Per non parlare delle grandi differenze che ci sono tra nord e sud, come sappiamo benissimo la domanda di lavoro al sud rimane scarsissima, nonostante l'Italia tutta abbia una domanda di lavoro che è la più bassa d'Europa, ma sappiamo che al sud il lavoro è sempre meno e sempre meno qualificato, quindi ci saranno diciamo esperienze fortemente diversificate all'interno del territorio nazionale che non faranno altro che in qualche modo cristallizzare le diseguaglianze, le differenze di classe già esistenti nel paese. Scusa Marta se insisto sempre con lo stesso tasto, ma a me sconvolge quando è il pubblico a sfruttare, non so, un'impostazione forse romantica, però cercando notizie appunto sulla questione alternanza scuola-lavoro, spesso, come dire, vengono utilizzati questi studenti anche per progetti che servono a mantenere i servizi pubblici, ad esempio. Questo ce lo potevamo aspettare? Ce lo potevamo aspettare nel contesto attuale in cui lo Stato e in generale l'amministrazione pubblica ha abdicato a quella che è la sua funzione e al rispetto ai diritti costituzionali. Quindi sì, gli esempi che facevi esistono studenti in alternanza scuola-lavoro che lavorano come giardinieri presso gli ospedali, esistono appunto studenti che lavorano nelle scuole stesse, quindi anche quelle funzioni pubbliche, prima venivano retribuite, pensiamo alle 150 ore, agli sportelli orientamento eccetera, mentre adesso lo fanno obbligatoriamente e gratis. Sicuro possiamo dire che nel momento in cui anche il pubblico, soprattutto il pubblico, da un lato a promuovere attraverso la politica questi strumenti, dall'altro a farne uso, il livello è talmente basso, l'asticella ormai diciamo si è spezzata, che il privato ne approfitterà molto di più, anche perché appunto il privato poi ha sempre come obiettivo quello di stare a galla e fare profitti, costi quel che costi.